questo mondo non si fa più niente. Se non sei raccomandato almeno un po', hai dei sogni da inseguire nella mente. Se non sei divorato dalla gente, sono anni che aspettavi questo momento. Non lo far portare via dal primo sufficimento. Finalmente sei arrivato alla vetta. Senza che te ne accorgessi sei caduto giù. O magari ti hanno spinto. Ora di forza non ce n'è più. Per risalire e rimanere laggiù, laggiù, laggiù.